in primo piano. Giornali che si dedicano oggi principalmente a due temi: l'economia. C'è stata la chiusura ieri del workshop Ambrosetti con importanti incontri faccia a faccia, e la politica. Sicuramente non sono finiti gli strascichi del caso Boffo. Ma l'economia in primo piano. Come detto, c'è stato questo incontro tra la leader di Confindustria Emma Marcegaglia e il leader CGIL Epifani. Disgelo Marcegaglia Epifani, questo è il titolo d'apertura di Repubblica, così come La Stampa. Marcegaglia apre alla CGIL. Quotidiano nazionale: industriali CGIL prove di disgelo. Sicuramente è uno dei temi del giorno, ben analizzato tra l'altro sul Corriere della Sera. Marcegaglia alla CGIL, un progetto paese, ma dico no alla cogestione, non se ne parla. Tra l'altro è interessante proprio sul Corriere della Sera il dietro le quinte che Antonella Baccaro scrive a pagina 3. L'apertura Epifani spiazza i due leader di CISL e UIL, vale a dire Bonanni e Angeletti. Sì al dialogo, ma niente veti, dice Raffaele Bonanni. Il numero uno dopo l'incontro tra Emma Marcegaglia e il numero uno della CGIL Guglielmo Epifani. Ma dietro la ritualità del commento, scrive Antonella Baccaro, si intravede l'atteggiamento di chi, come CISL e UIL, intendendo difendere a tutti i costi l'accordo sul secondo livello contrattuale non firmato da CGIL, segue con qualche sospetto le mosse del maggior sindacato. Qual è l'obiettivo di Epifani? Si chiedono Bonanni e Angeletti. Cosa vuole, cosa può ottenere dagli industriali? Questo è dunque il dietro le quinte dopo l'incontro. Il Corriere della Sera, tra l'altro, analizza a lungo appunto questo incontro e si dedica anche all'altro argomento economico, quello degli attacchi che ci sono stati dal ministro dell'economia Tremonti, le critiche dopo le critiche agli economisti, le critiche alle banche. Ed è proprio questa l'apertura del Corriere della Sera: i conti in tasca alle banche, forti guadagni nei primi sei mesi, pochi vantaggi per i risparmiatori. In un articolo a pagina 2, tassi, mutuo e spese, pochi vantaggi per i risparmiatori, il Corriere della Sera sostanzialmente va a fare i conti degli utili degli istituti di credito. Gli utili del primo semestre sono stati portati in cascina, non solo dai colossi americani. 5,2 miliardi per Bank of America, 4,2 per Citi, 3,7 per Goldman Sachs, 3,4 per JP Morgan. E in Italia le principali banche non hanno saltato l'appuntamento del semestre. Unicredit ha chiuso con 900 milioni di utili, Intesa San Paolo con 1,5 miliardi, Monte Paschi Siena ha portato a casa 300 milioni. Insomma, il sistema del credito si mostra reattivo. E proprio i conti in tasca alle banche è il titolo appunto del Corriere della Sera, che riprende le critiche che anche ieri il ministro dell'economia Tremonti ha lanciato agli istituti di credito. Infatti anche su Repubblica c'è questo attacco: il no ai miei bond è contro il paese, dice Tremonti. Tremonti attacca ancora i banchieri, il ministro: sono per le imprese, non fate come i signorotti. E tra l'altro c'è un commento dell'economista Tito Boeri proprio su Repubblica, un commento abbastanza sferzante nei confronti del ministro dell'economia. Scrive Boeri: da quando è tornato in via 20 settembre, Giulio Tremonti è riuscito a evocare tante streghe quanti sono i venti. Dai cinesi che mangiano come noi, agli speculatori dell'utilitaria Tata Nano venduta in India per soli $2,000, agli avidi petrolieri, mali assoluti cui indiscriminatamente contrapporre la propria bravura altrettanto assoluta. Ieri è stata la volta dei banchieri, bersaglio facile nell'immaginario popolare. Ecco una breve summa degli strali lanciati ai banchieri da un ramo del lago. Fanno malefici alle imprese, sono come signorotti sui ponti che impediscono il transito. Parlano in russo, si rivolgono a Putin, vanno contro l'interesse del paese. Il ministro, scrive ancora Boeri, ha esplicitamente attribuito ai banchieri gli stessi fallimenti della politica. Le banche sono diventate talmente grandi, secondo Tremonti, da decidere loro al posto dei governi democraticamente eletti. Perché allora, chiede Tremonti, non ha rafforzato in tutti questi anni, chiede Boeri ovviamente, perché non ha rafforzato in tutti questi anni i controlli e la supervisione delle banche di maggiori dimensioni, possibilmente coordinandosi con gli altri paesi dell'Unione? Questo dunque su Repubblica, Tito Boeri. Sicuramente i temi economici sono, come detto, in primo piano, e queste critiche prima ci sono stati nei giorni scorsi agli economisti, ora alle banche, dirette da parte del Ministro dell'Economia, hanno suscitato anche polemiche. Come detto, l'altro tema che rimane sicuramente in primo piano è quello della politica. La politica, ancora dopo il confronto e lo scontro molto acceso riguardante l'affaire Boffo, Dino Boffo, il direttore di Avvenire che poi si è dimesso, ancora ci sono interviste, commenti, ne potete trovare davvero di tutti i tipi sui giornali. Ne ho selezionati alcuni anche perché c'è un nuovo attacco abbastanza duro, che tra poco vedremo, da parte del giornale di Vittorio Feltri. Questa volta se la prende con il presidente della Camera Gianfranco Fini. Ma prima rimaniamo sul caso che sicuramente ha monopolizzato tutta la scorsa settimana, vale a dire il caso Boffo, appunto. Corriere della Sera intervista al ministro Calderoli, che parla per la prima volta: nella Chiesa un regolamento di conti. Il risultato? Si riparla di grande centro. Vittorio Feltri ha addentato una polpetta avvelenata, dice Calderoli. Sono arciconvinto: chi ha passato quelle carte a Feltri di certo non gli ha fatto un favore. Può darsi che il direttore del giornale sia diventato lo strumento per un regolamento di conti interno alle gerarchie cattoliche. E dunque, chiede Marco Cremonesi, che intervista Calderoli, dunque si conferma il mio allarme, dice Calderoli, per un'operazione in corso che vorrebbe dimissionare sia Berlusconi che Umberto Bossi e magari pure Antonio Di Pietro, un'iniziativa dei potentati economici per sostituire chi è al governo con qualcuno di più malleabile. Insomma, Calderoli evoca i cosiddetti poteri forti che ogni tanto vengono tirati in ballo in Italia. Per parlare di un vero e proprio complotto, a dire si vuole fare ricreare un grande centro, far cadere Berlusconi, lo stesso Bossi, e tira dentro anche Di Pietro. Tra l'altro, su questo tema, il tema politico, è proprio dedicato l'editoriale del Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia, che scrive, il titolo è Due o tre cose su Premier e stampa. Se c'era bisogno di una prova dell'incapacità del Presidente del Consiglio di gestire i conflitti, anche di natura personale, in cui si trova coinvolto, egli l'ha data con la querela ai giornali nei giorni scorsi. Berlusconi, scrive più avanti Galli della Loggia, con la querela Repubblica Unità ha aggiunto benzina al fuoco della polemica. Perché? Perché egli non capisce l'importanza della suddetta gestione politica, ma forse c'è una ragione più semplice, perché non è nel suo carattere, e Berlusconi sa bene che è proprio nel suo carattere, nel suo spontaneo modo di muoversi, di parlare, di reagire, che sta la ragione principale del suo successo come politico outsider. Tra l'altro, per quel che riguarda la politica, c'è stato un atteso faccia a faccia ieri tra Gianni Letta e il Papa. Letta incontra il Papa, con il Vaticano i rapporti sono saldi, su il Corriere. E sulla stampa c'è un lungo e dettagliato articolo di Ugo Magri, un retroscena proprio dell'incontro Letta-Benedetto XVI, la pace dietro il palco. Scrive Magri: il gentiluomo di sua santità che è Gianni Letta mai oserebbe fraintendere il Papa. Se dal breve incontro col pontefice è emerso sorridendo, addirittura fermandosi a parlarne coi giornalisti, vuol dire che per l'ambasciatore di Berlusconi è andata davvero bene, molto bene, forse meglio di quanto lui stesso si sarebbe aspettato. Il caso Boffo, scrive Ugo Magri, dopo questo incontro Letta Benedetto XVI, è alle spalle, acqua passata. Dunque, un incontro, un faccia a faccia che sarebbe andato molto bene secondo Ugo Magri e avrebbe rasserenato gli animi di quello che poteva profilarsi, secondo qualcuno, molte tensioni anche tra il potere del governo e quello del Vaticano. Ci sono tante altre reazioni per quel che riguarda la politica, tanti altri commenti che trovate sui giornali. Immancabile, come dire, visto che si parla di gossip, anche l'affacciarsi di Noemi, di cui tra poco parliamo, perché c'è una foto sul giornale, ha rilasciato un'intervista dopo vari mesi di silenzio, ovviamente sapete di chi si tratta. Prima però la vicenda appunto dell'attacco di Vittorio Feltri a Fini, un attacco molto duro. Dove vuole arrivare il compagno Fini? Questo è il titolo del giornale di oggi, di apertura, con una lettera in prima pagina. Caro presidente Fini, ovviamente la firma di Vittorio Feltri, il direttore, sulla vicenda Boffo ti sei comportato in modo vergognoso, scrive Feltri. Prima di unirti al coro invocante la mia crocefissione in piazza, dato che non sei ancora il segretario del PD, bensì il presidente della Camera, avresti dovuto informarti. Obietterai, ma tu hai dato dell'omosessuale al direttore dell'Avvenire. Ti rispondo, caro Fini, l'omosessualità non è un reato, neppure un peccato per me non cattolico. Piuttosto tu, amico mio, un paio di anni or sono ti lasciasti sfuggire una frase infelice e memorabile. Un maestro elementare non può essere gay. Con ciò dando per assodato che un gay sia anche pedofilo. Converrai di questo, dovresti vergognarti. E poi continua a Fini, l'attacco diventa, Feltri ovviamente, l'attacco diventa politico a questo punto. Prendo atto che in un biennio hai cambiato posizione sui gay e non li consideri più immeritevoli di stare in cattedra, però un'altra volta avvisaci prima delle tue virate, altrimenti ci cogli impreparati. A proposito di virate, sei ancora di destra o da quella parte ti sei fatto superare da Berlusconi? E infine, insomma, l'attacco sulla questione immigrati, l'accusa da parte di Feltri di avere cambiato posizione da parte del presidente della Camera su tanti temi, come appunto quello dell'omosessualità, ma anche e soprattutto quello dell'immigrazione, quello del biotestamento. La lettera di Vittorio Feltri, molto molto graffiante, si conclude proprio così: consiglio non richiesto, rientra nei ranghi, torna a destra per recitare una parte in cui sei più credibile, non rischierai più di essere ridicolo come lo sei stato spesso negli ultimi tempi. Uno sguardo sul Sole 24 Ore del lunedì, che come sapete è un'edizione che offre sempre molti spunti, molti numeri per capire come va il nostro paese. Nascosto il 20% dei redditi, questa è l'apertura, davvero impressionanti i dati che oggi il Sole 24 Ore mette in prima pagina. L'italiano medio dichiara al fisco 100 ma spende 120. E calcolando il reddito effettivamente disponibile dopo aver pagato le tasse, il divario con i consumi sale al 50%. E dunque il record è proprio in Calabria, cioè la forbice tra i consumi e il reddito imponibile. Il 48,3% in Calabria i consumi superano il reddito imponibile del 48,3%. Poi segue la Valle d'Aosta col 39,9%, la Sicilia col 38,6%. La Campania, la Puglia, il Trentino Alto Adige, ma insomma troverete tutta questa classifica pagina 3 del Sole 24 Ore, molto dettagliata, con un articolo anche di Marco Mobili, una classifica di certo che non rende onore in questo caso alle regioni che stanno ai primi posti. Sempre sul Sole 24 Ore in prima pagina c'è una storia molto interessante, a capire che spesso i soldi ci sono ma non vengono visti. A Is Arenas, il carcere di Arbus, hanno realizzato un caseificio. È bastato un finanziamento di 475.000 euro. Nella casa circondariale di Terni hanno invece puntato sul pane, corsi di formazione e la costruzione di un forno solidale con 70.000 euro. A Cremona, con 37.000 euro, i detenuti hanno digitalizzato gli atti del processo di Piazza Fontana. Insomma, sono alcuni dei 16 progetti per il reinserimento dei detenuti che sono stati finanziati coi fondi della Cassa delle Ammende. Il totale delle somme impegnate dalla Cassa è di 7 milioni. La sorpresa viene qui, e cioè che i soldi in realtà a disposizione della Cassa nel 2008 sono 146 milioni. Insomma, in questo organismo che è nato 70 anni fa, la caratteristica principale, scrive il Sole 24 Ore, è che non si riesce a spendere, un tesoretto che rimane lì inutilizzato, incredibilmente si potrebbe dire. C'è anche abbastanza cronaca sui giornali di oggi, vi segnalo alcuni articoli sull'influenza A. Perché ve lo segnalo? Perché come detto dalle 8.30 alle 9 ne parleremo nel nostro sondaggio, che è già disponibile sul sito di radio24.it, sul sole24ore.com. Noi ci chiederemo se c'è troppo allarmismo attorno all'influenza A. Virus A, scrive Repubblica, pronte 500.000 dosi di vaccino, manca solo l'autorizzazione europea per il viceministro Fazio. Possibile anticipo della campagna dal 15 ottobre, ma ovviamente su invece il giornale si parla della psicosi da contagio, ormai stanno aumentando tutti i consigli, l'alto là dei medici, fedeli, non baciate le statue, ci sono parrocchie nelle quali si dice invece dello scambio della pace durante la messa fate un sorriso, evitate contatti. Questo non solo in Italia, ma insomma un po' in tutto il mondo. Ci sono addirittura in Messico, leggevo, telenovelas dove sono vietati i baci. Insomma, un po' di psicosi mi sa che è già arrivata per questa influenza A. Vado sulla Stampa perché siamo alle ultime segnalazioni. Mi piace segnalare questa storia che trovate in prima pagina. Il ragazzo che ha inventato gli SMS gratis. Se ci tieni a partecipare a un incontro ma non sei in lista, l'unica opzione è l'autoinvito, scrive la Stampa. È quello che deve aver pensato il maghetto degli SMS, il 26enne comasco che ha inventato un fortunato sistema per spedire messaggini quasi gratis e che si è guadagnato un posto alla corte di Mister Prezzi. Si tratta di Davide Marrone, è inventore degli SMS low cost. E così il 31 agosto che ha fatto Davide? Ha scritto a Mister Prezzi. Mi ha risposto in un paio di giorni, non ci avrei scommesso, dice Davide. Io lì non conoscevo nessuno al ministero e ho spedito una mail al classico indirizzo ufficiale. Ebbene, questo è un ragazzo che ha inventato Skebby, una società che da un paio d'anni dà la possibilità di mandare SMS con i nostri telefonini a un prezzo circa dimezzato, anche più rispetto a quello degli operatori normali. Perché? Per abbattere i costi, dice Davide Marrone, non si sfrutta la rete GSM, ma la connessione internet, molto più economica nel trasmettere dati. E quindi arriva a far spendere fino a un centesimo o addirittura nulla per gli SMS, con una media di 6 centesimi, quando invece la media delle altre compagnie è di 10-15 centesimi. Ha scritto a Mr. Prezzi, che ha convocato tutti gli operatori, e Mr. Prezzi ha convocato anche lui per vedere davvero come si fa. Chiudo con un'ultima segnalazione, che è questa dal quotidiano nazionale Mussolini. Alessandra Mussolini, in questo caso in veste di nipote del Duce, Loreto, Piazzale Loreto a Milano, cambiamogli nome. Vorrebbe farlo diventare Piazzale Unità d'Italia. Dal punto di vista storico, dice la Mussolini, una piazza che ha diviso gli italiani sarebbe il simbolo dell'Unione della Repubblica. Anche dal punto di vista politico sarebbe un segnale significativo. Avere un luogo con un tale nome nella capitale del Nord. Ovviamente già si sono ribellati, parlando di offesa, per esempio, il leader dell'ANPI a Milano, Pizzinato. C'è solo lo spazio per la chiusura dedicata alla Gazzetta dello Sport, un grande Valentino Rossi con le orecchie da asino, vale l'asino che vola in prima pagina, e voglio leggere Rompipallone di Gene Gnocchi perché è sempre mitico. Dopo Italia-Georgia, Inzaghi è preoccupato per un posto nell'attacco del Milan, dovrò vedermela con Huntelaar, Pato, Borriello, Calazze, quello che ci ha fatto due sontuosi gol in Italia-Georgia.